Mix 24 di Giovanni Minoli. Ad aprile 2010, una donna di 56 anni, Gabriella Carsano, partorisce una bambina all'ospedale Sant'Anna di Torino. La piccola viene accudita dalla madre e dal padre, Luigi De Ambrosis, di 68 anni. Fino al giorno in cui il padre lascia la neonata che dormiva in auto davanti casa per un periodo stimato tra i 4 e i 7 minuti e una vicina chiama i carabinieri. Sì. Oltre all'allontanamento della bambina, i genitori vengono denunciati per abbandono di minore, accusa da cui poi furono pienamente assolti. Nel frattempo però la bambina vive tra comunità e affidi provvisori, infine un'adozione. Sono passati però così 7 anni. Oggi, dopo sentenze e ricorsi, la decisione dei giudici di secondo grado, che hanno ribadito l'adottabilità della bambina negando di fatto la possibilità ai genitori naturali, che non vedono la piccola ormai da 4 anni, di riaverla con loro. Al di là di come si concluderà questo contenzioso giudiziario, rimangono degli interrogativi di fondo. Chi può decidere la legittimità del desiderio di diventare genitore? E fino a quanti anni è consentito fare la mamma e il papà? Adriana Boscagli, legale di Gabriella Carsano e Luigi De Ambrosis. Ecco, i coniugi De Ambrosis come stanno? Molto combattivi, molto coraggiosi, molto forti, contemporaneamente profondamente delusi. Ma hanno accettato la delibera oppure no? Non hanno accettato, non hanno condiviso la sentenza della Corte d'Appello e quindi ricorreremo di nuovo in Cassazione. Ci tenevo a precisare che la bambina, quando fu loro tolta nel 2010, in realtà non è stata data in adozione, è stata data in affido a terzi e ha avuto una peregrinazione durata anni. È vero. Ecco. È vissuta tra comunità, affidi provvisori. Esattamente. Adesso da 3 anni vive in una famiglia, no? Non sappiamo esattamente da 3 anni. Nessuno lo può sapere, potrebbe essere anche semplicemente da pochi mesi. Ma e come mai non si può sapere? Perché quando c'è questa procedura di adozione, la legge nega alla famiglia e a chi che sia, per conservare la privacy, qualsiasi tipo di informazione. Ma il motivo principale che ha prodotto l'allontanamento della bambina dai genitori naturali, cosa è stato? Quel ritardo di 7 minuti del padre? Non me lo dice? Assolutamente sì. Ma... assolutamente sì. La segnalazione del vicino di casa che la bambina era stata lasciata per qualche minuto. Qualcuno dice 4 minuti, qualcuno dice 7 minuti, ma sicuramente pochi minuti entro questo termine, non oltre. La bambina era stata lasciata dormiente nella macchina, macchina parcheggiata davanti alla casa, dove in questo paese c'è ogni formula di sicurezza. Ma certo, che si conoscono tutti, è evidente. Senta, ma soprattutto è nell'ambito del proprio giardino, del proprio spazio, avvocato, ma questo non segnala un'attenzione morbosa, ingiustificata nei confronti di questa coppia? Ritengo che lei abbia centrato immediatamente il tema. Senta, ma la coppia era già sotto osservazione in ospedale? Non prima del parto. Durante il parto c'è stata una degenza esagerata di trattenimento della signora di 20 giorni. Ma per paura di cosa? Non lo possiamo sapere e nessuno ce lo dichiara, quindi sono delle nostre illazioni, questo lo dobbiamo ammettere. Non ci siamo spiegati, la signora non si spiegò come mai non la dimettevano, nonostante avesse semplicemente una gestosi che capita di frequente e che può essere curata anche da casa. Ecco, senta, ma insomma... per me che non sono esperto di questo tipo di diritto, la colpa principale di questa coppia è l'essere anziana per desiderare un figlio, insomma un reato detto, di anzianità praticamente. È quello che ha detto la Cassazione il 30 giugno del 2016, finalmente in Cassazione, dove noi ci siamo rivolti con un procedimento straordinario perché i signori purtroppo avevano già subito 3 gradi di giudizio che gli avevano negato la possibilità di riavere con loro la bambina. Noi ci siamo costruiti un quarto grado per tornare in Cassazione. Ma avvocato, parlando di cose che capiamo tutti, sì, con la vita che si allunga per fortuna sempre di più e la salute anche regge abbastanza, ma tutti i nonni che allevano i nipoti eccetera, cioè, vanno tutti messi, sì, in galera? Dovremmo alla fine concludere in sintesi che quei nonni non sono in grado di allevare i figli, perché dopo i 50 anni non si è più in grado, né, se non si è in grado di allevare i figli evidentemente non si è in grado di allevare bambini, forse, quindi nemmeno i propri nipoti. Forse c'è un lavoro serio da fare nella legislazione italiana, che dice? Assolutamente sì, c'è una necessità di avere una attenzione da parte dei giudici. Avvocato, siamo il paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Ma forse bisogna adattarci. La Corte d'Appello apre addirittura spiraglio ad un pericolo maggiore, che quello che dice la Corte di Cassazione, che ormai sappiamo tutti, non c'è bisogno di essere laureati in legge, è il massimo grado della giustizia, certo, italiana, e invece non conta più niente, perché la Corte d'Appello si può permettere di disattendere nonostante le prescrizioni date precisamente il 30 giugno del 2016 dalla Corte di Cassazione, e cioè di non fare nessun riferimento all'età e di non fare nessun riferimento all'abbandono, poiché né l'uno né l'altro potevano essere oggetto di motivazione per togliere la bambina a questi signori. Grazie avvocato. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, insomma, al di là di tutti questi espedienti giudiziari, qui colpisce come una comunità sia lei a decidere di rifiutare per dei genitori che l'hanno fatto il loro figlio. Ma a me mi sembra una cosa abbastanza grave. Folle. Sì, sì, sì. Eh? E poi non tiene conto del dato di realtà che già è emerso in questo pezzo di intervista, cioè che la popolazione invecchia. Sì, cioè, no, appunto, ma poi è un figlio fatto, un non figlio è che è adottato. Se lo sono fatti non lo possono, sì, tenere. Che no, dici? La follia. È la controprova che non si può dare credito né voce né possibilità di giudizio al cosiddetto Vox Populi, perché l'attenzione morbosa è quella che ha determinato poi una scelta che ha ferito non tanto il diritto dei genitori, ma il diritto del bambino. Certo, certo, avere dei genitori. Sì. Inoltre c'è anche un tema, obiettivamente, che riguarda il ceto sociale di chi pratica queste cose. Cioè, se si tratta del desiderio di diventare genitore a qualsiasi età, che faccio l'esempio di Gianna Nannini, di Luciano Pavarotti, nessuno si scandalizza, nessuno pensa di chiamare i servizi sociali, no? Beh, questa è una cosa tremenda che a me mi ha fatto rabbrividire. L'applicazione del censo, di fatto, oppure dei canoni, diciamo, del celebrity system, no? Sui casi di adozione e non solo, di appunto essere genitori tardi e così via. Io credo che questa sia un trend costante che si sta rivelando sempre di più. Insomma, c'è chi può è e molto chi non pericoloso. Può. Certo, il parametro del censo, quello a cui fa riferimento Mario, poi non solo sconfina in questo campo delicato qual è quello delle adozioni, ma abbiamo anche i casi celebri di chi si consente di acquistare letteralmente il figlio, sì, commissionandolo a un utero esterno, quindi mercificando i rapporti veri, per cui arriviamo anche al paradosso. Sì, sì, ma qui stiamo parlando addirittura invece di figli che si sono fatti. Sì, è tutto uno sconfinare ulteriore che è determinato da una profonda ingiustizia. Sai qual è il prossimo passo di questa storia qua, il prossimo passo è l'ingegnerizzazione dei figli, cioè con l'avanzamento della tecnologia genetica i ricchi potranno scegliere e progettare figli perfetti e i poveri, non potendolo fare, avranno i cosiddetti figli imperfetti. Sono distopie già scritte dai grandi visionari. La società liberale, la società liberale è così spietata che ha tolto perfino la prole ai proletari. Sì, bravo, questo è perché così, ha tolto la prole ai proletari. Comunque, così. Questo caso di Ambrosius è una vicenda che è tra giurisprudenza e pregiudizio. Mi dite a cavallo che l'ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma, lei ha seguito questa vicenda con curiosità. Qual è il motivo principale che giustifica questa sentenza? Ecco, io penso che sia stato molto determinante per i giudici ai diversi livelli, primo, secondo e terzo grado, perché queste persone avevano già fatto domanda di adozione nazionale ed internazionale ed era stata respinta, cosa effettivamente eccezionale. E quindi ci saranno stati dei motivi che hanno determinato i giudici a dare questo responso. Ma perché, che paura c'era dei servizi sociali, secondo lei? Per quello che ne sa lei? Questa paura è nel senso che sono apparsi persone, come posso dire, non in grado di fronteggiare le difficoltà di un percorso adottivo. Con data anche l'età, ma non soltanto per l'età. Beh, certo, non soltanto, ecco, perché non soltanto per tanti l'età, bambini sono allevati dai nonni, certo. Comunque queste persone erano state, la signora era stata già segnalata quando ha partorito, perché è chiaro che la signora non è madre biologica del bambino, no? Perché a quell'età non si può, certo. Si potrebbe anche partorire se avesse congelato i suoi ovuli, ma credo che non ci sia stato questo percorso, ecco, precedente. È capitato però che i vicini hanno denunciato il padre perché si era allontanato dalla bambina per 7 minuti, quindi vuol dire che c'era un clima di diffidenza nei confronti di questa coppia. Ma, come mai? Non posso escluderlo, ma non posso certo confermarlo. I 7 minuti non so come siano stati calcolati o si sia potuto calcolarli i 7 minuti, perché delle persone sono accorte alle grida della bambina, questa bambina magari grida, non so, sui 7 minuti. Comunque sicuramente la bambina andava presa e portata su e non lasciata in macchina. Certo. Questo Senta. Io credo che sia comunque condivisibile da tutti quelli, certo, che seguono il caso. Senta, dottoressa Cavallo, lei è stata per molti anni presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Che cosa significa, per allargare un po' il discorso, cosa significa valutare l'adeguatezza di un genitore? Non è semplice. No, sicuramente non è semplice. Credo che sia, come dire, la situazione più difficile di fronte alla quale Infatti. Si trova non un giudice, però un insieme di persone, un collegio, certo, fatto di quattro Ma come persone. Si procede, diciamo, come si procede per verificare che una persona sia adatta a crescere un figlio? Ma ci sono delle valutazioni fatte dalla psicologa, dalla psicoterapeuta, dall'assistente sociale, si incontrano queste persone, poi anche dai giudici onorari del nostro tribunale, queste persone si incontrano più volte, perché una sola volta non ti basta, perché certo. In genere poi le persone sono in grado, specie più avanti sono acculturate, più sono in grado di nascondere qualcosa. Certo. Quindi i colloqui sono molti e cercano di valutare, come posso dire, l'approccio delle persone, la capacità della relazione, certo, la sì. loro vita, diciamo, la loro vita di relazione, le loro amicizie, che tipo di vita fanno, persone frequentano, si muovono nel mondo, viaggiano, sì, vanno sì. a teatro, insomma tutta una serie di elementi. Sì. Dottoressa Cavallo, la bambina della coppia in questi anni è vissuta tra comunità e affidi provvisori e sono passati 7 anni fra questo palleggiamento. Allora non era meglio farlo prima? Sicuramente è una storia che fa pensare sulle lungaggini della giustizia ancora una volta e sulla decisione iniziale, ecco, si sarebbe potuta prendere un'altra decisione del tipo fare un affidamento familiare e vedere intanto come rispondevano, insomma, i diversi gradi di giustizia. Ma che insomma, cosa... di farla passare per le case famiglia. Infatti, appunto. Ma però, dopo 7 anni cosa si dovrà dire a questa bambina? Ma sicuramente la bambina deve sapere la sua storia e io spero che abbia già saputo in un modo accessibile ad una bambina che non è nata lì, che queste persone che l'allevano con amore non sono i loro genitori, che quando sarà più grande li potrà anche conoscere. Insomma, è chiaro che la bambina deve sapere di essere stata adottata. Certo, ma i genitori però si sentono puniti per essere vecchi, un po' discriminati per l'età. Ma non solo, guardi, no, l'età non è stato un elemento, solo ma non uno. È stato quello discriminante. Ecco, questa storia sui giornali spesso è stata contrapposta alle vittorie nei tribunali delle coppie omosessuali che sempre più spesso riescono ad avere riconosciuto i figli del partner o quelli avuti con l'utero in affitto all'estero. Insomma, diritti tutti legittimi e tutti fondati, ma chi può decidere la legittimità del desiderio di diventare genitore? È il momento più difficile quello, tant'è vero che io appena entrata nel tribunale come presidente ho modificato il procedimento, ho detto questo procedimento va fatto davanti al collegio, 4 persone, e davanti al PM, in modo che tutti e 5 siamo responsabili della decisione, mi spiego, perché prima il procedimento veniva trattato da un giudice delegato che poi alla fine mandava questa massa di documenti non molto bene ordinati al pubblico ministero per un parere e poi il collegio, 4 persone decidevano. Io ho detto dobbiamo essere presenti sin dal primo momento tutti. Per chiudere, dottoressa Cavallo, mi dice qual è il caso più difficile, nel quale è stato più difficile decidere e che magari le resta ancora così nell'anima e nel pensiero? Ma glielo dico subito perché appunto mi resta sempre, cioè guardi, la legge prevede che quando abbiamo fatto un affidamento preadottivo che dura un anno ed uno dei due coniugi muore, il bambino può permanere presso l'altro, la coppia, presso il genitore superstite, non più coppia ma genitore superstite. Però se noi affidiamo un bambino e passano alcuni mesi, perché in genere passano alcuni mesi prima che si faccia l'affido preadottivo, e muore il genitore, in quel caso è morta la mamma, che per noi era un bambino neonato, era una bambina neonata, quindi la mamma era il fondamento dei primi anni di vita. E quindi io, tutto il collegio ha dovuto decidere se allontanare quel bambino dal coniuge, dal padre insomma, sì, oppure no. E c'erano tutti fuori, i nonni, gli zii che piangevano, insomma. È stata una scelta molto dolorosa quella di allontanare il bambino da questo padre. Quanti anni fa è capitato? È capitato 5-6 anni fa. E ne sa qualcosa ancora di questo? No, non so niente. La bambina sta bene, sappiamo che sta bene, era piccolissima, stava lì da 4-5 mesi, insomma, la sua primissima adozione, infanzia da neonata. E però per me è stato molto doloroso. Quel padre avrà sofferto molto. Sicuramente ha sofferto, perché era un giovane e quando è venuto davanti a me, io questa è stata la cosa che mi è rimasta ancora dentro. Ecco, naturalmente la Cavallo ci fa pensare alla bambina il cui destino è stato deciso dai giudici. Questa bambina oggi vive in un'altra famiglia, si è evidentemente ritenuta più adatta dei coniugi De Ambrosis a crescerla. Però, come ci ha raccontato la dottoressa Cavallo, sono scelte molto sofferte, anche quelle dei giudici, con un carico emotivo pesante. Eppure a loro spetta decidere chi può e chi non può diventare genitori. Sia una coppia anziana, una coppia omosessuale, insomma ai giudici anche questo tocca oppure in qualche modo intervengono nel fare. Che dici tu, Mario? Siamo sempre nel filone della ingegnerizzazione della vita, nel senso più ampio del termine. Si passa dalla ingegnerizzazione, studio e progettazione dei cromosomi per arrivare perfino a predeterminare i percorsi dell'anima. Ti faccio un esempio, io sono rimasto molto colpito, la dottoressa Cavallo è molto brava, però sono rimasto molto colpito dal destino di quel padre. Certo. A cui è stato strappato quell'affetto. Secondo me quella è una ferita che non si rimargina c'è mai. C'è una persona che ci scrive, uno dei nostri ascoltatori, dice un esempio a Roma, una ricca e famosa giudice che inquisita ha procreato pur di avere la garanzia dei domiciliari. Nessuno si è sognato di togliergli il bambino che era nato con la procreazione assistita. Anzi, ha avuto tutte le agevolazioni del caso. Cioè, un esempio molto delicato, sì, per dimostrare che anche in questo caso la giustizia, diciamo, perché, oscilla come perché, valutazione. Non c'è una, innanzitutto non c'è una formula magica. Poi, secondo me, ma questo è veramente, siamo nel campo delle opinioni personalissime, si deve lasciare lo spazio al caso, al destino, al fatto. Perché se no tu hai la pretesa e la presunzione di poter regolare tutto. Abbiamo Francesco da Taranto. Francesco, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Allora, io ho chiamato semplicemente per fare un'osservazione. Volevo dire che al giorno d'oggi fare i genitori sappiamo tutti che è molto complicato. Quindi non penso che sia da più che mondo è mondo difficile. Esatto. In più però volevo dire, un genitore di 68 anni. Sì. Ha la capacità di crescere un figlio e di illustrare quali sono perfettamente magari i punti cruciali della società di oggi? Ma... cioè una persona che è vissuta 40-50 anni fa riesce comunque a creare un rapporto con il proprio figlio di dialogo? E perché no? Magari... e perché no? Magari anche meglio di uno giovane che ha più esperienza. Sì, sì, sì, sì. È non, possibile. Non dico questo, però... non è che 68 anni adesso, per carità, la vita si è allungata moltissimo, Sì, sì, sì, io dico che ho un amico di 64 anni che ci parlo come se fosse il mio coetaneo. Allora, però, già la risposta. No, sì, però dico che magari a volte può capitare anche può il capitare. Problema contrario. Sì, ma certo. Capita anche che ci sono dei genitori che hanno 30 anni e mamma sarebbe mia. Meglio che no. Sei Marco da Torino, Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Io faccio solo una considerazione. Dica. Che c'è la festa del nonno in questo paese. Sì. Non so se anche negli anni. Che fondamentalmente l'Italia possiamo dire che è una repubblica che è fondata sui nonni, perché abbastanza nonni. Sì. E mi domando perché questi genitori non sono stati aiutati. Infatti, allora, questa è la domanda che ci siamo fatti e speriamo che la Cassazione possa rimediare. Posso dire una cosa rapida? Certo. Cose concrete. Se andate a vedere i conti economici nazionali pubblicati dall'Istat, scoprirete che nell'ultimo triennio, quindi non vado neanche indietro più di tanto, il prelievo fiscale complessivo sulla famiglia italiana è immutato. Si fanno tante chiacchiere e allora non si agisce sui redditi personali, sugli aiuti alle famiglie, cioè comunque, le cose che chiedeva questo signore. Adesso. Comunque il tema delle adozioni è delicatissimo. In questo, in Italia si parla proprio di crisi delle adozioni. Le domande si sono dimezzate negli ultimi 10 anni. Le motivazioni sono principalmente due: gli anni dell'attesa e l'incertezza di arrivare a destinazione. È una sconfitta per il nostro paese che non sa aiutare le coppie che desiderano in qualche modo ma non possono avere figli, e le istituzioni sono lontane e lente. Pietrangelo, tu volevi... Se si parla della diminuzione delle domande di adozione, scrive una nostra ascoltatrice, una donna, posso chiedere un favore? Leggo. Si può dire che una mamma ha detto che non dimenticherà mai gli occhi bellissimi ma tristissimi di un bimbo che viveva chiuso in una casa famiglia? Che il primo giorno che è uscito un'ora rideva come un pazzo e correva da non riuscire a prenderlo? Che quello stesso bambino, dopo poco che arrivò a casa, aveva sempre gli occhi bellissimi ma pieni di felicità? Che ogni giorno che passa sono sempre più luminosi quegli occhi, che non vedeva l'ora di dire mamma a 3 anni, che mai la mamma dimenticherà quando un mattino è salito sul letto chiamandola mamma, che una donna senza utero non è una donna a metà, che non c'è DNA che tenga, che non potrà mai avere come con lui un figlio così simile a lei, e che nessuno sa che si può essere madre per amore e non per sangue, e che l'amore ha la potenza propria della grazia di diventare carne e sangue, perché il cuore comanda su tutto. Si può dire? Chiede la nostra ascoltatrice. Si può dire, la ringraziamo moltissimo per questa lettera. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Mario, Pietrangelo, che ci fai sentire oggi? Eccola. Che cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi, che senso ha dare amore a un uomo pietà. Uno che non si è mai sentito finito. E allora? Non ci crederete, ma oggi per un istante ogni pendolare che usciva dal vagone della metropolitana si incamminava nei corridoi senza incontrare anima viva. C'era tutto intorno funzionante, però deserto. Ha chiamato Persefone, sempre alla guida della sua macchina tedesca, ha voluto questo brano per dire a Dioniso una sola parola da dire piano. Un'emozione da poco. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito. E allora Mario, tu dove vai oggi? Germania, Francia. Germania, Francia, Italia. Grandissimo pezzo, molto da divanetto, Giovanni. Sì, Slave to Love, Brian Ferry. Adesso l'hanno riaperto il tuo divanetto. Sì, però senti che voce. Vabbè, adesso questa la faccio un po' da DJ, cioè molto, voce molto calda vicino al microfono. Allora, l'inflazione è infrenata a marzo in Germania e fa più 1,6 annuale contro il più 1,9 di gennaio e il più 2,2 di febbraio. Che cosa vuol dire tutto questo? Beh, certo, c'è un raffreddamento dei prezzi e questo, diciamo, non è buono per i tedeschi, perché volevano la fine del quantitative easing, cioè il programma di acquisto di titoli di Stato. Buono per gli italiani, che invece volevano che continuasse a una prosecuzione. Il dato vero è che sull'inflazione ancora non sappiamo come le cose andranno, perché i prezzi sono influenzati notevolmente da quelli energetici, in particolare dal barile, dal petrolio, che si era abbassato, adesso sta tornando a rialzarsi. Vediamo quindi il prossimo mese cosa succede, ancora non è chiaro. Ma Mario, ti faccio una domanda da uomo della strada: perché ci piace tanto che si rialzi l'inflazione? Perché per esempio è migliore per i paesi che hanno un alto debito, perché l'economia significa che sta andando meglio, quindi i prezzi, diciamo, salgono. Così via, ci sono tutta una serie di fattori che sono interessanti, diciamo, da valutare. Il problema è quando si alza troppo. Se si alza perché si alza, se non si alza perché non si alza. Non a caso il doveva andare al 2%, il 2%, diciamo, è considerato l'obiettivo ideale. Penso che l'Egitto, l'altro giorno leggevo, cioè l'inflazione è al 30%. No, cioè quando hai ma anche noi siamo arrivati ben oltre. Beh, noi siamo arrivati all'epoca del governo Craxi, mi ricordo. A tassi di inflazione molto alti. Certi governi ci hanno sistemato la partita del debito pubblico, tanto per dire. Però la cosa secondo me interessante è guardare tutto questo in prospettiva adesso ad autunno. Cioè il clima economico complessivo quanto influirà su un contesto politico in cui i numeri sono questi: ci sarà da fare una manovra da 20 miliardi di euro in autunno. Questo è secondo pieno me clima elettorale. Bene, questo io sono molto curioso di vedere come andranno dove, le cose. Dove prenderanno i soldi? E intanto Pietrangelo Salamino. Ovini e affini. Agli agnellini di Berlusconi fanno seguito le pecorelle della Boldrini. Ospiti della Camera dei Deputati, ieri sono arrivate Gaia e Gioia, due pecorelle. Notate il dettaglio a proposito dei discorsi seri fatti prima, definite così: adottate a distanza dalla terza carica dello Stato. E poi dice che uno si butta con Vittorio Sgarbi. Capra! Nella sequela del Buon Pastore, così c'è dunque la Pia Pastoressa. Pia Pastoressa, sì, giusta formulazione di genere della presidenta, che non può definirsi pastorella perché, Giovanni, filologia alla mano, per la sua dignità istituzionale non può essere chiamata pastorella. Avrebbe infatti la qualifica di pastorella una inaccettabile sfumatura sessista. c'è un rimando semantico, diciamolo, ai filmetti scollacciati, no. Tipo, eh sì, no. La pastorella al distretto militare, no. La pastorella e il lupo lupigno, no, alla pastorella non far sapere quanto è buona la ricotta con le pere, ovini e affini, quindi... Manco il tempo di scaldare i forni e nelle cucine di tutta Italia si materializza il senso di colpa. Ma te che? Ma sì, perché la scena di Berlusconi che fa ciucciare l'agnellino muove a tenerezza. Però stretto tra Michela Vittoria Brambilla, ras dell'ambientalismo italo forzuto, e Francesca Pascale, la fidanzata, il mite Berlusconi... Mm-mm. Risulta ancora più agnello dell'agnello. È una sorta di capro espiatorio issato sull'altare dell'ideologicamente corretto. Una scena così crudele, Giovanni, Mario, una scena così crudele che non può non farci rimpiangere i bei tempi. Ovini, affini, oibò. Oh, già trapela lo schema della prossima campagna di propaganda. In un solo colpo si fa Natale, Pasqua e Epifania. Ebbene sì, il prossimo Natale la Brambilla e la Pascale con Berlusconi nelle vesti di buon pastore provvederanno alla deagnellizzazione dei presepi. Perché l'allusione che i pastorelli fanno rispetto al bambinello qual è? Portano in dono gli agnellini. E che cos'è se non un invito al celeste infante a cibarsi dei piccoli quadrupedi, immaginando di cucinarli a spezzatino in tegame con le patate di contorno, gli spicchi d'aglio, i ciuffi rosmarino e le infinite spezie della fantasia pantagruelico. Insomma, la questione, caro Giovanni, sai qual è? C'è un ribaltamento, altro che semantico, un ribaltamento antropologico. I comunisti che mangiavano i bambini adesso salvano gli agnellini e Berlusconi da par suo ruba la scena a tutti. Ora andiamo con la semantica, perché la semiologia qui si impone, e anche la filologia. Che cosa succede? Berlusconi becca la tendenza, diciamo così, becca e li fa becchi, perché comunque chisto, eh? Quanto è insomma, popolare, insomma, tutta questa cosa in Sardegna. L'agnello sacrificale è lui, è Berlusconi. Cioè, a Pasqua si mangia Berlusconi. Certo, nelle mani di quelle due. Io mangio l'agnello, non so. Vabbè, vai ancora con una bolla, Maria. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. Allora, questa era roba il partner. Johnny and Mary, bella. Mary counts the walls, knows he tires easily. Giovanni, sai, c'è una cosa, una notizia che è curiosa, curiosa, molto importante in realtà, ma non in Italia, ma comunque insomma, dove il mercato è sviluppato è significativa. Nel 2016 i manager di fondi attivi, fondi di investimento, significa fondi che devono fare più dell'indice di riferimento del mercato, sì, per intenderci, hanno realizzato in realtà risultati inferiori ai loro, ai loro indici di riferimento, perché il mercato è approvato, come suol dirsi, ed è sempre più difficile in realtà realizzare questi risultati. Cosa significa tutto questo? Significa che le commissioni, le alte commissioni che hanno incassato fino a poco tempo fa non sono più giustificate, quindi i loro margini di guadagno si sono assottigliati notevolmente e si assottiglieranno sempre di più. Inoltre i clienti nei soli Stati Uniti hanno ritirato dal 2007 ad oggi oltre 1200 miliardi di dollari da questi fondi attivi per trasferirli su altre forme di investimento. La cosa è molto interessante perché ovviamente è un settore dell'industria finanziaria molto ricco. Sentiamo il commento di Gordon Gekko. Sentiamo. Ma che gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. Grande. Se adesso ascoltiamo una storia che mostra anche il lato meno raccontato del paese, che arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato uno degli agenti del cambiamento. sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Partire chiedendosi non dove andare, ma chi conoscere. Con Destinazione Umana, infatti, la meta del viaggio sono proprio le persone. Silvia Salmeri, 30 anni, è una delle cofondatrici di Destinazione Umana. Silvia, come nasce questa idea? Beh, l'idea nasce da me e dal mio team. Siamo 10 ragazzi, insomma, tutti sulla trentina di Bologna. Io 4 anni fa, dopo 4 anni alla scrivania, ho deciso di licenziarmi dall'azienda per la quale lavoravo. Cosa facevi? Per aprire. Ero nell'ufficio commerciale, impiegata. Sì. Diciamo che mi sono resa conto che non era quello che desideravo e mi è stata data la possibilità di aprire un bed and breakfast sulle colline bolognesi della Val Samoggio, dove abito. Quell'esperienza mi ha dato modo di capire che i viaggiatori che arrivavano nella mia struttura erano sì interessati alle belle camere, al territorio, però erano altrettanto interessati a conoscere la mia storia ed erano altrettanto interessati a raccontarmi le loro storie. Da lì, quando è terminata la mia esperienza da gestore, mi è venuta l'idea di mettere insieme delle strutture ricettive che avessero la mia stessa filosofia di accoglienza e di promuovere appunto un viaggio che fosse prima di tutto incontro. Mi fai un esempio concreto delle vostre offerte di viaggio? Sì, diciamo che noi proponiamo 4 ispirazioni al viaggiatore, che sono il cambiamento di vita, l'innovazione, quindi per chi è alla ricerca di incontrare qualcuno che lo stimoli nello sviluppo di un'idea di impresa innovativa, la ruralità, quindi filone di viaggio legate all'immersione nella natura, e spiritualità invece legate alla ricerca di se stessi. Quindi innovazione, per esempio, io voglio fare un viaggio sul filone innovazione, dove mi mandi? Ti mando a Bologna, al Podere San Giuliano, dove sono appena stata, e i ragazzi che lo gestiscono hanno un progetto assolutamente innovativo che si chiama Orto dello Chef, e loro praticamente hanno deciso di riconvertire la loro azienda agricola, che non è più solamente l'azienda agricola che rifornisce l'agriturismo, ma hanno creato un circuito di chef con i quali 2 volte l'anno decidono i prodotti che gli chef vogliono per i loro menù, loro glieli coltivano, e quindi diciamo che c'è un rapporto, un filo diretto tra l'azienda agricola, lo chef e quello che poi il cliente del ristorante andrà a mangiare. Quindi insomma, e quanto costa un viaggio del genere? Ma diciamo che la formula weekend si aggira intorno ai 250 euro. Grazie Silvia Salmeri. Per altre informazioni su Destinazione Umana e le altre realtà della rete di Italia che Cambia, www.italiachecambia.org. Numero verde 349-238-6666, sms, pubblicità. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Mix 24. Io ho esplorato al condizione certa perveni viris mias in gravescente etate non iam aptas esset monospitrinum eque administrandum. Con un discorso in latino, Papa Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, annuncia la sua rinuncia al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro. Un addio storico è una notizia di quelle che fanno il giro del mondo, perché per trovare un altro noto papa di missionario bisogna tornare indietro fino a Celestino V. Nato il 16 aprile del 1927 in Germania, figlio di un poliziotto e di una cuoca, Joseph Ratzinger diventa sacerdote nel 51. A 31 anni è uno dei professori universitari più giovani della Germania, dove insegna teologia dogmatica. Il 19 aprile del 2005 viene eletto 265esimo pontefice della Chiesa Cattolica e diventa così l'erede dell'amatissimo Karol Wojtyla. Ma quello che era sempre sembrato un papa meno carismatico del precedente dà invece dimostrazioni di enorme coraggio al mondo, uscendo di scena come in un film. In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. Io sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condotti. Come tutto cambia. Domenica 16 aprile, nel giorno di Pasqua, Joseph Ratzinger, il Papa Emerito, compie 90 anni. Bene, noi ricordiamo con la puntata Joseph Ratzinger e i suoi 90 anni. Intanto c'hai una bolla di aggiornamento, Mario? C'ho due aggiornamenti, te ne do tutte e due. Uno internazionale è importantissimo: il premier Shinzo Abe, di fronte al Parlamento giapponese, ha detto che Kim Jong-un, cioè il dittatore della Corea del Nord, avrebbe la tecnologia per usare il gas sui missili balistici. E tra l'altro le immagini satellitari, cioè, non basta bomba atomica, ci vuole in più il gas va di moda in questo periodo, come hai visto. Tra l'altro le immagini satellitari dicono che la Corea del Nord starebbe per compiere il suo sesto test nucleare, questo sarebbe molto, molto grave. L'altra rapidissima è che sono in corso i colloqui last minute, è il caso di dire, visto di cosa parliamo, cioè di Alitalia, per salvare Alitalia oppure per arrivare al commissario. Sì, secondo me è quello che vorrebbero i sindacati, mi pare di capire. Sì, perché il piano di Etihad non convince nessuno. La realtà è che l'Italia è cotta, ma da anni. Mi spiace, ma è così. Vabbè, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, marzo 2017. Cosa ci insegnano Ivan Allen per curare i pazienti anziani? Ivan Allen erano una rock band americana di cui io non sapevo alcunché fin quando non ho letto questo articolo. Era una band, dice l'articolo, di musicisti molto pirotecnici, ma anche molto pignoli, perché pretendevano nel contratto che nel camerino ci fossero varie cose, tra cui le M&M, quei confettini di tanti colori con dentro la cioccolata al latte. Ma volevano che ci fossero M&M tranne le M&M marroni. Voi direte, ma è un po' matti. Ma forse no. Perché volevano che ci fossero le M&M gialle, verdi, azzurre, bianche, ma non quelle marroni? Perché se gli organizzatori del palco del concerto fossero stati precisi, avrebbero trovato M&M di tutti i colori, ma non quelle marroni. Se trovavano quelle marroni, voleva dire che gli organizzatori erano dei pescioni e che quindi sul palco le cose sarebbero andate male. In effetti è un intelligente modo per firmare un contratto. Ma l'articolo ci dice in qualche modo quali sono le M&M che noi dobbiamo considerare quando visitiamo un anziano, e se non consideriamo queste cose rischiamo di fare degli errori. Sono tre: la velocità del cammino. Se l'anziano cammina più lento del solito vuol dire che è un anziano fragile. I calzini. Se non è capace di mettersi e di togliersi i calzini vuol dire che è a rischio di non autosufficienza. Se ha le unghie dei piedi mal curate, vuol dire che o non ci arriva, e ancora qui è a rischio di non autosufficienza, o non c'ha nessuno che lo aiuta. Altro problema serio che, se viene trascurato, rischia, come le M&M, di darci una scarsa efficienza nel curare questa persona. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ci fa sentire? Oggi una canzone per chi deve correre, correre per stare dietro un sentimento nuovo e veloce. Tiziano Ferro, Indietro. Oh, oh, oh, oh, oh. Io voglio regalarti la mia vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi? E so che serve tempo, non lo nego. Anche se in fondo tempo non ce n'è, ma se cerco lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro, se cerco. che non guarda avanti mai.